colpe le so. Potrei farti un elenco, dire che senza te mi manca l'aria. Grido nell'aria, parole al vento. Alzi la voce, vedo che gridi ma non ti sento. Corro veloce, resto sul tempo. Oggi non vinci tu e sembra una partita a carte. Facciamo presto, salto sul primo treno per Marte. Se chiudo gli occhi la vedo, la vita che volevo. Funziona solo nei sogni, mi spiace di doverti svegliare. Svegliare. Mi spiace ma un domani non ci sarà. Un po' come le storie su Instagram. Con te soltanto tempo che se ne va. Che se ne va. E dovevamo chiudere il mondo fuori. Ci siamo tatuati, abbiamo fatto errori. Con te soltanto tempo che se ne va. Che se ne va. Che non torna più. Dire di no, terrò il telefono spento. Vivere senza me ti servirà a cambiare aria. Prendi il tuo tempo, io non ti odio. Sono felice se sei contento. Se trovi un'altra, io non mi offendo. Facciamo che vinci tu e mettiamo i rancori da parte. Ho provato ogni strada, consumato cuore, consumato scarpe. Se apro gli occhi la vedo, la vita che volevo. Ti vedo solo nei sogni. Che bello potersi svegliare. Svegliare, mi spiace ma un domani non ci sarà. Un po' come le storie su Instagram. Con te soltanto tempo che se ne va. Che se ne va. E dovevamo chiudere il mondo fuori. Ci siamo tatuati, abbiamo fatto errori. Con te soltanto tempo che se ne va. Che se ne va. Che non torna più, non torna più. Il tempo mi parla di te, amarsi è breve, dimenticarsi fa male. C'è una parte di me che ti vuole, l'altro ogni giorno ti lascia andare. Siamo tutto ciò che gli altri non vedono, eravamo ciò che gli altri volevano. Ora il tuo nome non conta più niente, come una lacrima in mezzo all'oceano. Domani non ci sarò più, conviverai con le tue paure. Non siamo nient'altro che due sconosciuti che hanno un ricordo in comune. La vita che volevo non è questa, un mare di sogni dentro la mia testa. E tu non fai parte di questi, sto meglio senza te. Mi spiace ma un domani non ci sarò. Un po' come le storie su Instagram. Con te soltanto te.